questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Florenzi, palla al piede, attenzione Borriello lì vicino, c'è di Aic. Florenzi ancora in area di rigore, la Roma, Florenzi la mette dentro col sinistro, la rete, il vantaggio ed è Marco Borriello che porta avanti la Roma 1-0, torna a segnare lo Stadio Olimpico più di due anni dopo. No, è la frutta del lavoro della squadra, abbiamo 27 maghi, tutta la rosa e tutti i giocatori danno il meglio nel campo, avete visto ancora questa sera la solidarietà della squadra, loro vogliono vincere non per loro, per la squadra, per il compagno. Una cosa magica è questa, la gioia con i nostri tifosi. Quasi quasi vado avanti ad ascoltare You Can Do Magic tutta l'ora, anzi fino alle 3:20. Ovviamente mi hanno aggiustato le cuffie, se no non sarei qui. 800240024, Pierluigi Pardo, di chi è questa canzone? Del grandissimo, dell'indimenticato, non lo so. Degli America, dai. Ah, degli America, vedi. Feste del liceo a 14 anni, ma tu eri bambino, tu eri piccolo. Io ero, sì, ero un pischelletto, come diciamo a Roma, sì. Andavo forse in quarta elementare, ecco, quinta elementare. Non svegliamo troppo, dai. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato, oggi in regia. Senti che bello. Adesso mi sento un po' troppo Ringo, quindi molliamo lì. Ti hanno visto nella notte in giro vestito da zucca insieme a Cassano. Foto anche su Twitter, credo anche il nostro, giusto? L'abbiamo messa la foto di Cassano vestito da zucca su Twitter, ce l'abbiamo. Sì, sì, cioè su Twitter ho avuto modo anche di esprimere personalmente, diciamo, tutto il mio sconcerto. Una cosa veramente vergognosa, che una bruttezza, però vabbè, insomma, autoironia, oggi, dai. Oggi è il giorno della magia. Allora, volete giocare anche all'otto? 67, minuto del gol di Borriello, 10 ovviamente le vittorie, 30 ovviamente i punti, più 5 ovviamente rispetto alle altre, 681 minuti senza prendere gol, 11 marcatori diversi in 10 partite. Ci giochiamo? Sì, ci sarebbe anche Maicon che comunque ha propiziato l'autogol contro il Verona, quindi volendo, sì, sono anche 12, nel senso che comunque per l'interpretazione moderna che si dà, quello è quasi un gol di Maicon. Ascolta Pierluigi, ma tu, sì, ieri sera hai raccontato la partita per Mediaset Premium, ovviamente come sempre, che atmosfera, cosa si respira all'Olimpico? Perché a me veramente, vista da lontano, tra questo eccesso meraviglioso di autoironia con i maghi, compreso quello vestito da Merlino, che vanno sotto la sud dopo la partita, questa mi sembra uno spremuto di gioia, di emozione, mi viene quasi da dire che la Roma uno scudettino l'ha già vinto. Sì, anche se poi deve essere molto brava la squadra a non farsi contagiare troppo da questo tipo di clima, lo ripetono come un mantra continuamente tutti i giocatori che vengono in questo è normale. Ma insomma, Roma lo sappiamo, no? È facile alle eccitazioni, agli entusiasmi. La filosofia è molto semplice, quella di godersi intanto le cose, di non pensare, e mi sembra quella giusta, è come quando stai cominciando a frescare con una ma non sei ancora convinto, però pensi, però senti qualcosa, però senti il momento, e poi se andrà male andrà male, ecco. Sì. Questa mi sembra un po' la filosofia che c'è in questo momento, che mi sembra quella giusta, perché a me piace perché penso che poi alla fine è vero che si gioca per gli almanacchi, no? E quindi per poter avere una festa finale alla fine della stagione, poter dire ho vinto questo, ho vinto quello, ma si vive anche poi per tutta una serie di il tifoso vive per tutta una serie di emozioni quotidiane, quindi insomma se i tifosi da Roma da 2 mesi vanno a lavorare la mattina più felici il lunedì, insomma evidentemente già questa è una soddisfazione, no? Poi questa squadra è una squadra bellissima, sì. Per me non è la più forte del campionato, lo ribadisco, per me è la terza per rosa dopo Juve e Napoli, sì. Però è una squadra che però la bellezza la fa anche l'entusiasmo, sai, esci con una, non è detto che la sposi, però se senti le farfalle nello stomaco è già qualcosa. Senti, convoca gli ascoltatori. Quanto siamo romantici, Getta, quanto siamo romantici? Mollami, you can do magic, io divento matto. fai un appello agli ascoltatori. Sì. Dai il numero verde, dai. Allora 800 89 24 89 24 0024, sei un disastro, 800 00 24 00 24, lo rifaccio allora, 800 24 00 24, facilissimo, 800 24 00 24. Mi ricordi maestro Giancarlo Santalmassi, questa radio molti anni fa, è un onore. Strade. Tutti convocati. Io non lo so, voglio sapere. Io ho una visione cattolica cristiana, quindi non ho questa visione, legata esoterica, quindi. Perciò niente, io intanto buongiorno presidente, io sono il Mago Ignazio che faccio vincere la Lazio, non gli serve. Sì, bravo, io sono Mago Ciappetto che mo dovete. Allora, messaggi 349-238-6666, c'è questo di Fabio di Brescia, non è per noi ma lo leggo lo stesso. Vogliamo parlare di quando si incrocia una donna che porta lo stesso profumo di una ex? Domanda Fabio. Oppure un altro ascoltatore, 24 reti fatte e una sola subita, che record è questo? Scusate, non ho capito se la bonifica dei terreni è stata fatta. No, questo non c'entra niente. Che ci frega delle 10. Poi arriva Paolo, prosaico che rovina tutto. Che ci frega delle 10 vittorie e vogliamo i trofei. Ma dai. No, vabbè, ma è giusto. Ci deve essere sempre il contraddittorio, ma assolutamente. Ma i tifosi della Roma vogliono i trofei, perché poi è chiaro che a questo punto, per come si è messa la stagione, se non dovesse arrivare nulla, poi sarebbe una delusione enorme. Quindi questo è assolutamente indiscutibile. Però insomma, intanto poi stiamo parlando di una squadra che quest'anno partiva per tornare, secondo me, in Europa League, cioè l'obiettivo all'inizio della stagione era questo. Sì. In questo momento ha 11 punti di vantaggio sulla quarta. Dopo lasciamelo dire le grandi bugie, perché Luis Enrique, vabbè, con tutte le attenuanti del caso, e soprattutto Zeman, perché questi risultati della Roma sono una sconfitta postuma per Zeman, molto presuntuoso, secondo me. Sì, poi dico la mia, sono una sconfitta postuma per Zeman e per le sue idee, per la sua intransigenza e per la sua presunzione. Ebbene, io ripeto, i trofei, d'accordo, però queste si potessero imbottigliare le emozioni, in questo momento ci sarebbe da imbottigliare l'area di Roma, giallo-rosso. Assolutamente, no, a proposito di Zeman, sicuramente lui l'anno scorso ha perso l'occasione, secondo me, più importante della sua carriera, perché lui era tornato a guadagnarsi comunque una grande panchina dopo una grande stagione con Pescara. Insomma, c'erano tutti i presupposti, si era veramente rifatto un'immagine, aveva una grande possibilità, però insomma l'ha clamorosamente fallita. L'allenatore a un certo livello deve essere anche uno psicologo, deve essere anche uno capace di motivare. Insomma, Garcia ha tirato fuori il meglio da De Rossi, tanto per citare il caso più eclatante, un anno fa, in estate, con la prima telefonata, De Rossi stava ancora facendo la Confederation, era ancora dall'altra parte dell'oceano e l'ha motivato. Un anno prima c'era stata un'analoga telefonata ma di segno completamente opposto fra Zeman e De Rossi, Insomma, i calciatori vanno motivati, oltre alla parte tattica, oltre ovviamente all'aspetto teorico del calcio, esiste una pratica quotidiana di emozioni, soprattutto nelle grandi squadre, la gestione di queste emozioni e di questa adrenalina è fondamentale. La Roma di questo momento è un esempio, c'è poco da fare, mentre Zema l'anno scorso ci ha capito pochissimo. Allora, 800-24-0024, Ernesto, provincia di Roma, ciao! Buongiorno a tutti e due, grazie di aver convocato Ernesto. Prego Ernesto, grazie. Volevo sapere una cosa, Pierluigi Pardo dice che per lui la Roma non è la squadra più forte, perché? Ernesto, ti ricordi Al Principe? Sì. Eccolo qui, Giuseppe Giannini, ciao. Poi ti rispondo per Ernesto. Poi risponde Pardo e Ernesto. Allora, innanzitutto lo chiediamo Al Principe se la Roma è la squadra più forte del campionato. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. E buon pomeriggio. Qual era la domanda sulla Roma? Aspetta, Principe, io voglio regalare a Ernesto la possibilità di parlare con il suo capitano. Ernesto? Oh capitano! Un saluto Ernesto. Bello. Grande Principe, come stai? Bene. Tutto bene, poi quando la Roma vince sto ancora meglio. Volevo chiedere Principe, perché io non sono d'accordo con Pierluigi Pardo, perché dice che questa per lui non è la squadra più forte del campionato. Io metterei su tutti i lotti. Non c'è Tevez. Il mio amico Pardo ogni tanto qualche cosina si lascia andare però poi preciso, vai, poi ti dico. No, ma secondo me è chiaro che siamo la più forte. Allora, secondo me non è la più forte tecnicamente, nel senso che secondo me anche per l'abitudine ai successi degli ultimi anni la Juve è un passetto avanti. Detto questo, nelle prime 10 giornate ci sono 5 punti di vantaggio e per come la Roma è stata allenata e per come ha giocato questi 5 punti sono strameritati. Quindi questo io non sto togliendo nulla alla Roma delle prime 10 giornate. Sto dicendo che secondo me come potenziale la Juve e anche il Napoli secondo me sono mezza lunghezza avanti. Detto questo, la Roma lo può vincere, lo dico i numeri. Pier, fammi sentire anzi, posso dire questo è il contrario di un aggravante, è una cosa è ancora un complimento maggiore che faccio alla Roma, perché con una squadra che secondo me non è la più forte sta dominando il campionato, quindi non è una cosa lesiva. Per me tecnicamente la Juve c'ha qualcosa in più, poi il calcio è bello perché è vario, no? Sì, la verità è anche un'altra, che Maicon, tutti si aspettavano un ex giocatore e invece è venuto con la testa a posto e sta dimostrando di essere ancora un grandissimo giocatore. Strootman pochissimo lo conoscevano a livello campionato italiano, cioè non aveva avuto mai esperienze in questo campionato e quindi poteva essere un punto interrogativo, invece si è rivelato un giocatore determinante in questo centrocampo. Pjanic l'anno scorso è stato un ex giocatore in confronto a quello che invece si vede quest'anno. De Rossi è ritornato ad essere De Rossi. Questi quattro giocatori hanno portato sicuramente la Roma a un livello che inizialmente nessuno si aspettava, compreso me. Cioè, 2 mesi e mezzo fa, se parlavamo di Roma, mettiamo a confronto Roma-Napoli o Roma-Juventus, anch'io avrei detto, pensavo comunque che Napoli e la Juve fossero ancora superiori alla Roma. Invece in queste prime giornate, 10 giornate, la Roma ha dimostrato di essere una squadra quadrata, una squadra anche a livello fisico forte, insomma pronta ad affrontare le difficoltà del campionato. E quindi credo che sia un primato in questo momento molto meritato. Ha detto bene Conte, no? L'allenatore della Juve ha detto è la Roma che sta in qualche modo facendo cose straordinarie, perché la Juventus sta facendo un ottimo Juventus campionato, e Napoli grande... stanno correndo forte tutte e due. Principe, mi fai un favore? Mi saluti Valeria Bernardi, che è la nostra regista e che è tua fan da quando era piccola. Un saluto e un abbraccio a Valeria. Grande. Valeria Bernardi, esatto. Poi, giusto, posso dirti anche Marta Cagnola che scrive su Twitter love, cioè il Principe diciamo è stato un simbolo di una generazione, diciamo. No, ma senti Principe, voglio farti sentire cosa ha detto a me a Pardo l'altro giorno Colantuono, questo sulla Roma. Io non credo che la Roma sia così difficile analizzarla, no? Ma secondo me no, però poi la Roma è una squadra forte, ma lo era anche negli altri anni, non c'è niente di, magari quest'anno è un po' più normale forse, lavora, si sa difendere anche basta, insomma lavora bene, si fanno gruppo, e De Rossi è un giocatore che gioca sempre e sta lì, cioè direi che la Roma sta facendo le cose che la squadra fa, è brava, c'ha giocatori di qualità, si difende bene, se c'è da ripartire riparte, se c'è da fare la partita la fa, un comportamento da squadra forte, perché è una squadra forte, c'ha giocatori forti. Allora Giuseppe, secondo me queste parole sono di Colantuono involontariamente, ora non voglio forzare le cose, lo dico io, l'ho detto prima anche a Pardo, questa Roma è anche una sconfitta per la presunzione di Zeman. Questo io non lo so, però posso dirti, come ha detto anche benissimo Colantuono, che la Roma, non ci dimentichiamo che sono 3 anni che fa lo stesso gioco, cioè sono 3 anni da Luis Enrique, Zeman e ora Garcia, giocano 4-3-3, hanno sempre giocato 4-3 per 3 anni di seguito. È chiaro che tutti e tre questi tre allenatori che poi si sono alternati, hanno, ognuno di loro aveva delle idee forse leggermente diverse, anzi sicuramente diverse, però i giocatori sono quelli, a parte i quattro che ho detto che sono stati inseriti e il portiere che è, diciamo, sono mezza squadra, e comunque il resto ha avuto in mente sempre questo tipo di gioco, quindi c'è un piccolo vantaggio, Garcia l'ho avuto all'inizio dell'anno, cioè ha trovato giocatori pronti per questo gioco, lui è stato intelligente, non ha portato grandissime novità, ha messo un po' d'equilibrio, ha inserito i nuovi sono ottimi giocatori, sono anche stati grandissimi giocatori, vedi Maicon, e quindi in più con il miglioramento di De Rossi, con Totti ancora a grandi livelli, eccetera eccetera, gli Aic è un buonissimo acquisto, un ottimo giocatore, ecco lì che la Roma si è portata nelle primissime posizioni e secondo me è leggermente superiore al Napoli come squadra, come organico. Quindi qui c'è una differenza di opinione rispetto a Pardo. Alla Juve? No, la Juve in partenza era la squadra da battere, è impegnata su diversi fronti e probabilmente, anzi sicuramente loro adesso spenderanno energie importanti per recuperare in Champions e questo la Roma dovrà sicuramente approfittarne, perché oltretutto la Roma si allena 6 giorni su 7, esatto. Insomma, mentre invece la Juventus per i vari impegni è chiaro che qualcosa sta perdendo sotto questo punto di vista, quindi la Roma secondo me ha tutto da guadagnare, però è anche vero che lo sta dimostrando sul campo, cioè tutto quello che sta ottenendo è perché sta facendo bene, sta giocando bene, è una squadra che, ha detto bene con Antonio, non ti concede molto e quando riparte fa male, ha giocatori che possono alternarsi in vari ruoli e quindi è la squadra del momento, sì. Speriamo che però, lo sia fino alla fine. Principe, col Ponentino come la mettiamo? Perché io immagino, prima chiedeva Pierluigi, insomma l'area di Roma credo sia meravigliosamente elettrica in questo momento, tu la conosci ovviamente come le tue tasche, quell'area, quella squadra, quella città, secondo me il pericolo è quello, no? Sì, però sai qual è un'altra cosa? Se c'hai delle teste calde è possibile che la troppa euforia ti possa portare ad andare fuori giri, ma se hai gente come mi sembra che ci sia nella Roma attuale, cioè i Bradley, i Strootman, i Pjanic, i De Rossi attuali, gente insomma che ha la testa sulle spalle, che vuole riscattare anche annate deludenti, io credo che l'euforia fa bene, ti porta a dare quel 20-30% in più e quindi sono convinto che anche lo stesso allenatore secondo me cerca questo contatto con l'ambiente, con i tifosi, vedi che all'aeroporto non scappa, che vuole affrontare i tifosi col pullman all'uscita, e questo è sinonimo di mentalità, cioè è entrato nella mentalità romana, ha capito l'ambiente, sta facendo bene ed è giusto che i giocatori assaporino questo calore, questo entusiasmo. È chiaro che poi dopo sta l'intelligenza del gruppo, all'intelligenza dello staff, all'intelligenza della società gestire questi momenti, però quando vinci poi il derby a Roma è tutta un'altra cosa. Ah, certo. La Roma da lì è partita a mille, no? Nel senso che ha riscattato intanto la Coppa Italia, quello precedente, sì, e poi si è data una carica per le partite che adesso stanno arrivando. Grazie Principe. Ciao, ciao. Ciao, ciao, un abbraccio a voi, un forza Roma d'Ernesto. Era Ernesto, no, il nome era giusto? Ernesto, era Ernesto, ieri, grande principe. Non so se dobbiamo. Io sono rimasto qui, eh. Ah, sei rimasto qui. Lì, Ernesto, un abbraccio, un forza Roma e un saluto a tutti. Grandi. Pier, se abbiamo la borsa, sai, anche oggi? Sì, dopo c'è la borsa. Dico una cosa, ieri sera ho parlato con un po' di giocatori. Borsa. Borsa. Abbiamo 27 maghi, tutta la rosa e tutti i giocatori. Tutti convocati. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. What should be? It's a kind of magic. 4-5 settimane, con testimoni voi avete potuto capire che fino adesso non ne ho fallita manco una. Comunque il Milan dovrebbe perdere. E la Juve, si tira su. E il Torino prende poi due punti. Prende due punti, naturalmente. Chiaro, vincendo prende due punti. Quindi perciò di chi perde. Perciò con l'Atalanta vince sicuro. Io sono pronto a perdere qualsiasi cosa. Beh, qui siamo 87-88, Kind of Magic, qui in questa Pierluigi Pardo se la ricorda. Ernesto è rimasto con noi, prima di salutarlo, cosa vuoi chiedere a Pardo, Ernesto? Allora, innanzitutto posso? Sì. Innanzitutto vorrei ringraziare i centralisti, sono splendidi. Sì. Hanno capito che io non avevo finito di parlare, mi hanno richiamato, veramente complimenti, una bella realtà. Bravo. Poi, volevo dire che secondo me Garcia ha tirato fuori da ogni giocatore della Roma la propria personalità, il proprio carattere, perché comunque si tratta di esseri umani. Non credo la classe di un giocatore come poteva essere un Zidane, come poteva essere un Platini, come può essere Totti, non la possono avere tutte, quella è una dote, ma di questi giocatori sicuramente ha tirato fuori il carattere e la personalità. Io penso questo, perché se sta lì non è un caso. Grazie Ernesto, sentiamo Pierluigi. No, sono d'accordissimo. La Roma è chiaramente la squadra meglio allenata di queste prime 10 giornate. Garcia sta facendo un lavoro eccezionale. No, ti dicevo, ieri sera poi ho parlato con qualche giocatore a fine partita. Quello che mi colpisce molto è questa separazione perfetta fra il contagio di una piazza e il divertimento che tutti provano, ovviamente. Vincere a Roma ha un sapore particolare, proprio perché può capitare la nona giornata di avere 1000 persone all'aeroporto che ti vengono a prendere, ed è qualcosa di abbastanza unico. Quindi questa cosa, secondo me, da quello che ho capito, li diverte molto, ma al tempo stesso non li distrae. Io vedo una squadra, e lo vedo anche in campo, che non ha alcuni difetti un po' storici, ambientali, che ci potevano essere a Roma. Roma è una città straordinaria, innamorata della squadra, e quindi chiaramente c'è qualche esaltazione ogni tanto, no? Di troppo, e c'è qualche depressione di troppo. Questa squadra mi sembra che abbia una forza mentale e una capacità di non scomporsi che è assolutamente eccezionale. Quindi è anche questo chiaramente un merito di Garcia, proprio la capacità e la vedi in campo, l'hai vista ieri sera, paradossalmente secondo me ieri sera Era capolavoro, secondo me era difficilissima. Ma è stata secondo me ancora più indicativa e ancora più positiva per la Roma una vittoria così, che se avesse vinto 4-0. Certo, ma cioè, guarda, più indicativa dal punto di vista tecnico rispetto al derby, perché quella è una cosa strana, particolare, ha ragione Gianni, ti dà la benzina per molte altre partite, eccetera, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista tecnico-tattico, giocare con così tanta pressione contro Chievo, che si è difeso benissimo, trovare gol con il giocatore che non, paradossalmente non doveva neanche essere quello adatto alla Roma, cioè non stava alla Roma in nessun modo, e invece ha segnato lui, anche questo secondo me è molto indicativo. Comunque il Ponentino contagia anche i francesi, caro Pier, perché vogliono l'equipe, le parisiane oggi chiedono addirittura una statua per Rudy Garcia. Carmine, provincia di Como, questa la sapeva? No. Pronto? No, non la sapevo. Buongiorno. Buongiorno. Niente. Dov'è? Cos'è questo Pronto? Rumore? Cos'è questo che rumore succede? Che sento? Carmine, che succede? No, i bambini. Ce li saluti? Sì, sono a casa e fanno un po' di casino. Diciamo. Beh, giusto così, fanno i bambini. Sì. Noi facciamo casino, siamo grandi. Esatto. Faccio un po' lei. Dica. Niente, per la Roma è indubbio che i risultati che sta ottenendo il gioco merita il primo posto, però nelle prime 10 gare pur avendo affrontato il Napoli e l'Inter, mi sembra che abbia avuto alcuni episodi il derby favorevoli. Episodi in che se, arbitrali? Che preoccupa maggiore. Episodi arbitrali, le lei dice? Dell'ambiente di Roma, no? Che sì. Siccome negli anni passati hanno fatto già degli scherzi, non vorrei che la Roma anche quest'anno poi alla fine... Ma, Carmine, ma che, a che, mi scusi, ma a quale tipo di episodi si riferisce? Episodi fortunati o episodi arbitrali? Cioè, che ma cosa intende? Episodi fortunati, sì, vabbè. Mi riferisco a alcuni salvataggi sulla linea, sia il palo di Guarin, oppure il rigore del contro l'Inter non chiaro, ecco, avvenuto fuori, che poi ha chiuso la partita. Sì. Però ci sono anche i numeri. Però, onestamente, Carmen, cioè, è vero, c'è stato il Napoli ha avuto due grandi occasioni sullo 0-0. Secondo me Napoli e Udinese sono state le due squadre che sono state più vicine a mettere in difficoltà la Roma. Detto questo, se contiamo le palle gol in 10 partite che la Roma ha concesso, forse arriviamo a 10. Cioè, forse la media è una palla gol a partita. Insomma, 15, non lo so, però cioè, è una squadra che non concede niente. Anche ieri, per carità, il Chievo è ultimo in classifica, eccetera, ha tirato in porta una volta. Ora è ovvio che la partita la doveva fare la Roma, il Chievo ha fatto una buona partita difensiva, ma a me quello che colpisce in positivo di questa squadra è la clamorosa quantità di uomini che c'è a protezione continuamente, la squadra che sa difendersi bassa, che sa cambiare volto durante la partita, che in certi momenti accelera, in certi momenti frena. Insomma, sono tutte sinceramente sono tutte doti da grande squadra. Ora, in tanti diciamo, e anche noi possiamo dire l'incognita, l'ambiente, Roma, gli entusiasmi, perché è vero, no? Perché è un dato di fatto. Però per ora questa squadra è l'esatto contrario. Cioè, se c'è una squadra in queste prime 10 giornate che oltre a essere stata forte è stata anche matura, fredda, capace di gestire la tensione, è la Roma. Sì. Quindi all'inizio si diceva vedremo adesso il derby, ok. Poi abbiamo derby visto, derby, Napoli visto. Adesso Inter e Napoli, abbiamo visto Inter e Napoli. Ma adesso ci sono le partite con le squadre deboli. Abbiamo visto quelle con le squadre che si devono salvare. Adesso senza Totti e Gervinho come farà? Alla fine delle soluzioni le ha trovate. Adesso il prossimo test è Torino, un test complicato perché per la prima volta non ci sarà uno dei due centrali. E quindi al di là del ritorno Castano. Di Gervinho che ha avvolto nel mistero pare che probabilmente non recupererà per Torino, che chiaramente sarebbe una buona cosa invece riuscire ad avere per Garcia, quella può essere un'incognita perché Burdisso non ha giocato nemmeno un minuto di stagione, però detto questo, tutte le volte che c'è stato un problema secondo me, però Pier, quando entri in una squadra che funziona è più facile, lo dimostra anche Boriello. Poi possiamo discutere sulla ammonizione di Castan di ieri sera, vabbè, ma questa qui questa è un altro film, è un'altra storia, eccetera, secondo me non c'era neanche in foto, ma comunque io segnalo due tweet. Uno è dell'ottimo Roberto Renga che scrive: a proposito di numeri, la Roma ha segnato 24 gol come l'Inter, ma ne ha presi 11 in meno, 11 come i punti di differenza per ogni gol subito. Gli altri Twitter sono di Marta Cagnola, che tu prima hai evocato, e che impazzisce per Giannini, che è il nostro ospite prima. In un'era di calciatori truccati e parruccati, loro, calciatori come Giannini, erano un'altra cosa anche per le signorine. Claudio, provincia di Modena. Non è che Cristiano Ronaldo sia brutto per le signorine, mi risulta che non è. Sì, ma è un po' troppo pettinato, dai. Sì, sì, sì. Va bene. Ma Claudio? Sono qui. Posso parlare? Sì. Sì, bene. Allora, un saluto a tutti intanto. Non sono d'accordo con il mio conterraneo Pardo. Meno male, sono contento. Ciao, Pardo. ciao. Non sono d'accordo nel senso che, secondo me, lo scudetto lo vince la Roma e non ci sono dubbi. Io sono di Roma, ma tifo Juventus. Io volevo chiedervi, quindi gliela tiri così, ma sì, abbiamo scoperto, abbiamo beccato subito. Sì, mi avete beccato subito, proprio. Ho gufato al contrario, diciamo. E no, quello lì che volevo dire è che la Juventus non credo sia più forte della Roma, forse neanche il Napoli, per due motivi. Primo, perché la Juventus quest'anno ha una difesa inguardabile, che è uguale a quella degli altri anni. Che è uguale a quella degli altri anni, peraltro. Che è uguale a quella degli anni. Infatti vi volevo chiedere che cosa è successo alla difesa della Juventus. Cioè, Chiellini, Barzagli e Bonucci erano tre rocce invalicabili. L'anno scorso hanno preso 18 gol, 14, 15, 18 gol. Pochi, non ricordo il numero. Beh, non me lo ricordo neanche io, ma insomma era la prima difesa del campionato e penso anche quella precedente. Anche l'anno precedente, l'anno prima. E quest'anno invece sembrano proprio... tranne Barzagli che grandi cazzate, grandi fesserie non gliel'ho viste fare, ma gli altri due sono Barzagli ne fa poche per principio, come tipo di, gioca- come esatto. tipo di giocatore. Io, ne fa poche per principio. Claudio, però... io lascerei anche la replica per Luigi dopo il traffico che è già in linea, sottolineando però senza fare troppo gli scienziati, che non è il caso, però mi pare che sia diversa l'intera fase difensiva della Juventus, perché dipende anche nel calcio che si gioca adesso con la velocità, con... Il modus di interpretare il calcio di oggi, che si debba parlare di fase difensiva, e quindi è il caso di domandarsi se gli interpreti sono gli stessi e prendi un sacco di gol in più, può essere casuale, può essere il momento, può essere la condizione fisica, ma può essere anche un centrocampo che non protegge più la difesa come faceva prima. Poi sentiamo Pardo dopo il traffico. Tutti convocati. Pier, ti tocca una risposta all'ascoltatore di prima che ha gufato a Roma. No, ma io penso che, se diciamo, il punto interrogativo, la domanda che ci si può fare sulla difesa della Juve può essere legata soltanto al logorio. Cioè, è chiaro che questa squadra in due anni ha faticato tanto, ha macinato tanto, Conte ha imposto un tipo di gioco, un tipo di intensità enorme, e quindi ci può stare che abbia spremuto un po' i suoi giocatori. Questa è una domanda, secondo me, possibile in assoluto. Perché sennò poi per il resto è un mistero, insomma. Io però la Juve in crisi faccio fatica a vederla, vedo una Juve che ha sbagliato alcune partite, ha sbagliato alcuni momenti di partita, come ovviamente l'ultima mezz'ora contro la Fiorentina, a Copenaghen sicuramente ha perso due punti che possono essere decisivi per il discorso Champions League, e secondo me il grande problema della Juve è che, contrariamente alle speranze di Conte, dovrà lottare fino all'ultimo minuto nell'ultima partita a Istanbul per qualificarsi in Champions, sì, e non è nemmeno detto che ci sia. Ma secondo me il vero problema della Juventus è quello, perché se definisci in crisi una squadra che ha fatto 25 punti in 10 partite, allora quando non sarà più in crisi che cosa farà? Esatto, viene da domandarsi esatto. Questo. E quindi poi alla fine bisogna capire come si arriva a metà dicembre, come si arriva allo scontro diretto fra Juve e Roma del 6 gennaio. Questa è una cosa interessante, perché la Roma adesso ha ancora un calendario abbastanza morbido. Juve e Napoli hanno lo scontro diretto fino al 10 gennaio, fino al 10 dicembre hanno la Champions League che le può condizionare. È chiaro che se la Roma riesce a allungare e arriva a Natale con 7, 8, 10 punti di margine, a quel punto le cose cambiano in maniera molto molto radicale e molto molto importante. Sì, certamente. Io penso che sia un campionato interessantissimo. Rimango convinto che dal punto di vista dell'abitudine la Juve sia la favorita, però 5 punti sono 5 punti, e questo non toglie nulla alla Roma, anzi diventa secondo me un ulteriore dimostrazione del lavoro eccezionale, certo, che sta facendo. Ma mettiamola così, la Juventus è quella che ha lo scudetto sul petto, Napoli e Roma devono andare a strapparglielo con le unghie, perché io sono convinto che non regalerà niente la Juventus da qui alla fine della stagione, e rimarrà comunque su questi livelli da 25 punti in 10 partite. A proposito di Juventus, c'è chi manda, Ulisse, manda un doppio messaggio: Chiellini scagionato con il Madrid, si ripete con il Catania su Bergessio. Scagionato con il Madrid non capisco in quale direzione, perché con il Madrid è stato semmai penalizzato, ma comunque. Poi sottolinea le dichiarazioni di ieri di Pulvinenti, presidente del Catania: Chiellini vigliacco impunito. Chiellini ha risposto su Twitter, l'abbiamo detto ieri, chiedendo scusa, ma oggi invece Conte ha risposto a parole a Pulvinenti. Abbiamo visto benissimo che Chiellini era andato per colpire la palla, Bergessio è stato molto bravo ad anticiparlo, non si è più fermato e ha preso un calcione forte, ma io sono stato il primo ad accorgermi del calcione che ha preso Bergessio e a preoccuparmi anche delle condizioni del giocatore. Ma è stato un intervento comunque fortuito, e se c'è qualcuno che parla a sproposito, che vada a rivedere le immagini, e non si permette di dire che Chiellini è un giocatore scorretto. Anzi, dovrebbero comunque scioccarsi la bocca di chi parla di Chiellini e che dice queste fesserie. Insomma, Conte, in questi giorni insolitamente aggressivo. Lorenzo da Pavia, non trovi? Non ti sembra aggressivo Conte? No, a volte sì, a volte fa delle dichiarazioni, però sono anche gli altri che comunque fanno, se dico tante cose, anche forse per provocare un po' l'ambiente Juve. Sicuramente il momento di adesso della Roma è uno dei momenti dell'anno, nel senso, bisogna vedere poi quando arriva a febbraio-marzo se è così. Certamente se è così a febbraio-marzo, tanto di cappello, la Roma è la squadra più forte d'Italia di quest'anno. Anche la Juve e anche, secondo me, il Napoli faranno ben fatica a fare come sta facendo questa Roma. 24 gol fatti, Vabbè, ma certo, ma questa, ma è chiaro che se stiamo ad aspettare febbraio o marzo, allora avremo già letto, saremo vicini all'ultimo capitolo del libro e sarà tutto molto più semplice. Il difficile è adesso, e quindi è adesso capire se la Roma... Infatti la Roma sta dimostrando di essere grande squadra, adesso mi sembra di rivedere, e chiedo a Pierluigi Pardo la Juve di Capello. La Juve di Capello, come tutte le squadre di Capello, è una squadra... che aveva la mascella in fuori dell'allenatore, quindi una capacità eccezionale nella gestione delle situazioni, una squadra che era sempre aggressiva, ma insomma Conte secondo me si avvicina molto a queste caratteristiche. La Juve di Capello, quella di Calciopoli, tanto per capirci, perché è stato un tema lungamente dibattuto dal punto di vista tecnico, per me rimane una delle squadre più straordinarie che si sono viste in Italia, quindi lasciando perdere tutto il discorso quali in questo momento non ce ne frega niente, facendo una valutazione tecnica, insomma è la squadra che ha portato poi nella finale del mondiale non so quanti giocatori tra Italia e Francia, una squadra eccezionale, forte fisicamente, strutturata, tecnica, che aveva tutto, una squadra nella quale Del Piero stava in panchina ed era giusto così, poteva essere doloroso, ma era giusto così perché c'erano due come Trezeguet e Ibrahimovic che in quel momento erano pazzescamente forti. Tu lo sai che stai dicendo le stesse cose che dicevamo oggi, lo sai. Questo però, attenzione, non toglie. Ma è vero, no, è la realtà. No, Piero, sto scherzando, io sto parlando di campo. Ma certo, allora, questo il campo ti dice che era una squadra eccezionale quella. Era una squadra straordinaria, ma che giustamente fai la conta dei giocatori poi, che sono arrivati in finale. Ci sono quella. State, insomma, tutta di processi, controprocessi, eccetera. Quella è un'altra cosa. Giornalisti, quello è un altro discorso. Io parlo tecnicamente, quella era una grandissima squadra con un grandissimo allenatore. Conte mi sembra che abbia una squadra un pochino meno forte dal punto di vista della consistenza tecnica, ma sono anche cambiati gli anni, perché purtroppo il livello del calcio italiano forse in questi anni si è abbassato, quindi per vincere forse ti basta qualcosa in meno rispetto a 5-6 anni fa, però lo spirito mi sembra assolutamente quello. Ora, è vero, è evidente che quest'anno abbiamo visto fare alla Roma nelle prime 10 giornate delle cose che vedevamo fare alla Juve gli anni scorsi, quindi un atteggiamento maniacale, una cura del dettaglio eccezionale, la capacità di non mollare mai, un'aggressività. La vera Juve di queste prime giornate è stata la Roma, per come è scesa in campo in tutte le partite. Sì. Mentre la Juve si è concessa qualche divagazione. È stata la squadra... Ma com'è fisiologico, secondo me? Com'è fisiologico dopo due scudetti, con il pensiero, il chiodo fisso della Champions League, con... secondo me è una normale flessione. Bisogna vedere come... riprende, al di là di tutte le parole, il rapporto tra Conte e la squadra, cosa che abbiamo detto molte volte, cosa che secondo me è davvero il nodo del problema. Senti Piero, altro tema a proposito di risposte, prima di andare a Cremona da Vincenzo, vi ricordo convocazione aperta fino alle 15:20, 800 24 0024, come ogni giorno. Altro tema, sempre a proposito di risposte, c'è Allegri che oggi in conferenza stampa, perché domani altro giro, vi ricordo, domani la Juventus a Parma, il Milan in casa con la Fiorentina, due partite quantomeno interessanti, quantomeno. Ebbene, ieri intervista di Seedorf, Allegri mi ha costretto ad andare via, volevo diventare il Giggs o lo Scholes del Milan, Allegri non l'ha permesso a me, così come a Inzaghi e Nesta, eccetera, eccetera. Allegri ha poi c'è stata anche una battutina di Inzaghi, che secondo me sarà il prossimo allenatore del Milan, secondo me, lo dico io. Frecciatina di Allegri, che feeling con Ibrahimovic, peccato per come è andata perché non ci facevano mai giocare insieme. Indovinate chi era l'allenatore. Ebbene, oggi Allegri, la risposta in conferenza stampa. Credo di non essere la causa di tutti i suoi mali, come c'era un vecchio motto andreottiano che conta ancora molto. Il potere logora chi non ce l'ha, in questo caso la pressione, la panchina del Milan mette molta pressione a quelli che non ce l'hanno, come ho detto la settimana scorsa, quindi credo che queste dichiarazioni le ricevo, ma non voglio dare visibilità a nessuno. Io sono portato a credere abbastanza a Clarence Seedorf, comunque. Ma no, qui non è che questione di credere a uno o all'altro, qui è la guerra dei Roses, cioè innanzitutto non dimentichiamoci che Seedorf era il candidato benissimo, di Berlusconi al posto di Allegri. Vabbè, voglio dire, ma è normalissimo. Allora, Seedorf, che Allegri possa aver avuto un problema nella gestione di alcuni giocatori, di alcune grandi personalità, questo è evidente, perché i casi sono stati più di uno. Poi che Seedorf e Inzaghi sono due, che sono i primi due candidati, Seedorf era addirittura, sembrava il prossimo allenatore del Milan in estate, no? Sembrava tutto fatto. Certo. Ed era tutto fatto. Quindi è ovvio che ci possa essere un po' di, po' di concorrenza. Non, mi sembra molto facile da leggere questa polemica. Non si amano e in più sono in concorrenza, per cui che si devono dire? Vincenzo, Cremona, che si devono dire? Sì, ciao. Ciao. Volevo farvi complimenti trasmissione per la compagnia che ci fa sempre e in modo anche intelligente. Bravissimi. Volevo fare complimenti alla Roma. Io sono uno sportivo, mi reputo uno sportivo. Sono tifoso della Juve, però vedo i grandi passi avanti che ha fatto la Roma come società e come gruppo quest'anno. Forse ha la voglia di vincere qualcosa e la fame che spera Conte nella Juve. Un po' di fame ce l'ho anch'io. Tu, Pier? Io ho mangiato oggi, sono abbastanza, non che di solito non mangi, ma insomma, diciamo oggi sono particolarmente sazio. Però sì, beh, quello che ho detto qualche minuto fa, secondo me c'è un marchio in comune fra la Roma di queste prime 10 giornate e la Juve che abbiamo visto gli ultimi 2 anni, cioè una squadra veramente eccezionale per atteggiamento, mentalità, capacità di non mollare mai. E quindi, insomma, se la Roma conserverà questo spirito fino alla 38esima giornata, penso che potrà anche portarlo a casa. In assoluto continuo a pensare che 5 punti non siano tantissimi, mancano 28 giornate, quindi siamo all'inizio di un lungo viaggio. E la cosa secondo me indiscutibile e più bella e più importante che la Roma ha conquistato in queste prime 10 partite sono gli 11 punti di vantaggio sulla quarta, come ha sottolineato ieri Garzia in conferenza stampa, che sono un'assicurazione futuro eccezionale. Sul perché futuro... oggi se tu vai in Champions hai un certo tipo di budget e ma poi non certo. Ti fai il futuro, se non ci vai no casa. Ma poi è un altro tipo di visibilità e poi è un altro tipo di palcoscenico. Dammi 2 segni secchi perché ho 5 secondi per le partite di domani. Juve, sì. Parma Juventus e Milan Fiorentina, abbiamo 10 secondi, 2 segni X ed X. Ciao Pier, ci vediamo lunedì. Tutti convocati. Passa Cuadrado, arriva in area, ancora Cuadrado, il dribbling, giù Cuadrado. Altro giallo per simulazione, espulso Cuadrado. Fiorentina in 10. Errore di Calvarese. Dal possibile rigore della Fiorentina, l'espulsione di Cuadrado. Giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fiorentina sull'espulsione di Cuadrado durante la partita con il Napoli. La Fiorentina non si arrende e, respinto questo ricorso, fa un ulteriore ricorso alla Corte federale che si riunisce oggi a Roma alle 15. A mio parere il giudice sportivo ha fatto quello che doveva fare, che altrimenti si crea un precedente. Non c'è dubbio sulle ragioni di fatto, qui si parla di ragioni di diritto e non era possibile creare un precedente giurisprudenziale di questo tipo, a mio parere, che è anche il parere del giudice sportivo. 800 24 00 24, numero verde. Tra poco parliamo con un collega che ieri ha fatto a Sportellate con Massi Alonso, quindi vi invito a non perdere le emozioni di questo confronto. Giulio, provincia di Como. Buongiorno. Bene o male, giudice sportivo, a rispondere? Sì, volevo parlare di basket, se è possibile. Sì, come no? Non sento più il Dan Peterson, perché non era così simpatica la sua canzoncina che cantava. Sì, no, ma lo risentiremo con Peterson, che tra l'altro leggevo che la Gazzetta ha preso i secondi diritti televisivi per il basket italiano. E ho letto oggi sul giornale che c'era questo è importante, Gazzetta IT. Questo è importante perché sa, secondi diritti vanno su internet, è abbastanza una rivoluzione epocale per la pallacanestro italiana, comunque quella di finire su un sito importantissimo, quello della Gazzetta. Certo. Mi auguro che si riesca da questo punto di vista, questa può essere una rivoluzione vera, mi auguro solo che da un punto di vista tecnico, tecnologico, sia possibile vedere le partite del basket italiano un giorno come è possibile ora vederle sul sito dell'NBA. Lei ha provato? No, sito no, dell'NBA? No, perché io non ho internet, purtroppo. Guardi, sito dell'NBA da... ormai da qualche stagione è qualcosa di veramente rivoluzionario. Fosse fatto così un sito per il basket italiano, io credo che non avremmo più problemi di diritti TV e quant'altro. Centinaia di dollari si acquistano tutte le partite della stagione, è possibile vederle quando si vuole, in una qualità, in una definizione spaziale. Quindi sarebbe il massimo, però purtroppo Ma com'è Cantù quest'anno? Completamente visto... negato. Sì, io anche. Com'è Cantù quest'anno? Cantù, lo dice un tifoso di Cantù, è forte. Vabbè, ho capito. No, non faccio il tifoso di Cantù. È chiaro che ha cambiato molto, ha cambiato Trinchieri via, soprattutto sì, Arrigoni, l'anima di Cantù è vero, via. Purtroppo, cioè, diciamo che non tanto quanto per Trinchieri, più per Arrigoni mi è piaciuto la sua lontananza. Brunetto, diciamo, però... davanti al quale io mi inchino, perché è il miglior dirigente di pallacanestro esistente nel basket italiano, è vero, andata a far ricca la Virtus Bologna, era l'anima di, è stato per molti anni l'anima di Cantù. Però le dirò che se il buongiorno si vede dal mattino, la squadra non è male. Anche Della Fiori ha un buon fiuto. Grande Ciccio, che salutiamo, figlio, ma poi Poeto, sì, certo. Io saluto Ciccio, poi lei mi saluta il figlio, ma poi è tornato Pino Sacripanti a casa sua, lei lo sa meglio di me, lei lo sa meglio di me, ed è un allenatore che quell'aria, visto che stiamo parlando di aria romana, l'aria canturina, che poi nella pallacanestro non è così diversa da quella dal Polentino romano, la conosce benissimo. Grazie Giulio. Paolo Nieri della Gazzetta dello Sport da Abu Dhabi, com'è fare a sportellate con Massi Alonso sul kart al Ferrari 7? una vogliardato più che altro, ma un momento anche un po' per vedere un po' i piloti, quando invece spesso li vedi dall'altra parte della barricata, tu fai il tuo lavoro, loro e loro, invece è stato un momento divertente, diciamo. Ma li hai anche sverniciati? Come? Li hai anche sverniciati? No. Ma no, perché alla fine io partivo davanti, loro dietro, poi mi hanno recuperato, abbiamo fatto un po' di battaglia, c'è stato qualche piccolo trucchetto da parte di chi controlla i kart elettrici, per cui... Ma sì, comunque è una cosa che ha lasciato il tempo che trovava, più che altro era per farsi quattro risate e passare una mattinata un po' diversa dal solito. Ma certo, com'è il Ferrari Center di Abu Dhabi, Paolo? Com'è, scusa? Il Ferrari Center di Abu Dhabi. Ah, è grandioso, è una Disneyland non solo per i bambini ma anche per i grandi, hanno fatto davvero le cose maestose, tante belle attrazioni, dalle più semplici dove appunto i bambini possono divertirsi, ma anche simulatori abbastanza impegnativi. Adesso hanno inaugurato appunto questa nuova pista che abbiamo provato ieri, montagne russe, tutto, per cui chi ama un po' i motori di sicuro viene a queste parti, non può non andare a fare un salto. Allora io invece, passando alla corsa che ci aspetta, terz'ultimo ballo stagionale, vorrei far sentire un passo, Paolo, della conferenza stampa di Grosjean. Allora, Raikkonen non si è presentato, in polemica con tutto il mondo. Grosjean, che ha fatto il miglior tempo, invece sì, e ha detto queste cose sul suo compagno di squadra, poi ve le traduciamo. What do you think of Kimi as a man and as a driver? Ramon, you go first. As a man I would say Kimi answer basically. I don't know him. He's with me as it is with you. As a driver, he's a very good driver, and he has been until recently a very good teammate. He's a quick driver, he's a consistent driver, and to me, having him to learn and to improve myself has been pretty good. But I don't see him in different clothes than the one we're wearing right now. Non faccio fatica a considerare Kimi Raikkonen nella galleria dei miei idoli, Paolo. Il suo compagno di squadra dice, ma sì, come uomo non so. Diciamo che non c'è gran dialogo con Raikkonen, diciamo, è parecchio difficile. È uno che viene qua per correre e basta, tutto il resto non gli interessa. Per cui colloqui con altri piloti, diciamo che forse quello con cui va più d'accordo un po' è Vettel. Sono due persone abbastanza schive, tutte e due normali. Per forza, non si parlano. Quindi va d'accordo. Vive nel suo mondo e basta. Grande acquisto per la Ferrari. E poi voglio vedere i rapporti con Alonso, perché Grosjean che sarà dice un po' interessante da capire, vedere che cosa succederà, soprattutto se le cose continueranno ad andare in maniera un po' difficile per la Ferrari. Avere due prime guide così può forse portare a qualche problema, può anche portare la squadra a crescere, per cui stiamo un po' a aspettare, capire cosa succede, anche perché sarà una stagione completamente nuova, cambia tutto, sì, e un pochettino si riparte da zero. Mi sembra come quelli che si giocano tutto al casinò, o la va o la spacca, insomma, per esatto, questa coppia ferrarista. Paolo, per chiudere, l'ho chiesto ieri a Flavio Vanetti, lo faccio anche con te oggi. Vettel come Schumacher, oppure Vettel come Messi, grandissimo nel Barcellona, ma da un'altra parte non lo so? Messi per me potrebbe essere più grande di Schumacher. Per come vedo io le cose, lui si, ovviamente ha una macchina fortissima, ma anche Schumacher aveva una macchina fortissima ed entrambi sono riusciti a renderla tale con tantissimo duro lavoro, con una squadra che li seguiva ciecamente, loro erano molto integrati nella squadra, quindi in questo punto probabilmente sono abbastanza simili. Però diciamo che a livello di comunicabilità, per me Vettel è un passo anche due molto più avanti di Schumacher, è una persona normale, ha una cultura che Schumacher più di tanto non aveva e lo senti quando gli parli. E poi secondo me è un pilota che al contrario di Schumacher si è trovato a lottare contemporaneamente contro tanti altri grandi piloti, perché non dimentichiamoci che in questi anni ha lottato contro Alonso, contro Hamilton, contro lo stesso Webber per certe cose, anche sicuramente non è sul livello, contro Raikkonen, contro un Button che in un certo momento con la Brown era davvero molto forte. Intuisco che ti è più simpatico di Schumacher. 3-4 avversari contemporaneamente, mentre Schumacher è più di un avversario forte alla volta, o Villeneuve, Hill, Häkkinen, Alonso, non ha mai avuto, e per me lui può essere più forte. Intuisco che ti è più simpatico Sebastian rispetto a Schumi, ma anche a me, No, ma al di là di quello io provo a guardare anche tutte le cose. Sì, poi a livello di pelle ovviamente con Vettel si riesce anche a parlare, a mettersi lì a parlare anche di altre cose. Per Schumacher non era molto possibile. No, grazie Paolo e complimenti per grazie ieri. Grazie a voi. Ciao. Grazie Paolo Janieri, inviato della Gazzetta dello Sport ad Abu Dhabi. Invece Giovanni da Napoli non ha corso coi kart contro... contro Alonso, e Massa. Neppure ci provo. Ma si può anche provare, magari ci divertiamo. Un giorno organizziamo. Sì. Dunque, intanto buonasera. Buonasera. Una sua considerazione su queste mie due osservazioni. Dica, me le segno. Perché la stimo molto, almeno per quanto, ogni volta che posso seguirla. Insomma. Grazie. Ora non so se qualcun altro già ha fatto questa un ritorno. Vabbè, comunque provo a parlare lo stesso. Dica. Io la sento, dicevo, bene. Volevo un suo parere su queste due considerazioni che non so se sono state fatte da qualcun altro. Premesso che sono un tifoso del Napoli e che quel rigore su Quadrado è grande come una casa, sì, che certo. Mi meraviglio come un arbitro e gli assistenti non riescono a vederlo. Perché tutti questo, sbagliano. Sono più vicini certe azioni dovrebbero pure vederlo. Vabbè, comunque, la mia considerazione è questa. Dopo che un Rossi, che noi grande giocatore che aspettiamo che faccia grandi cose in Brasile, speriamo che le faccia, sì, è un Quadrado che va cercando con quelle due gambette i piedi degli altri, no? E sì, questo mi riferisco alla prima ammonizione. Eh? È chiaro che non aiuta l'arbitro poi a, come dire, a fare il suo lavoro. Lo mette in difficoltà, certamente. Rossi, speriamo che poi Rossi, il grande giocatore, non ha bisogno di questi mezzucci di cercarsi il fair, no? E fare, diciamo, il rigore in area. Ma sa, lo fanno, e questo è la prima considerazione. Lo fanno in tanti, sì. L'altra considerazione è se su Savic Fernandez ha fatto fallo col braccio piegato, no? Pari l'ha fatto Roncaglia su Mertens. Ora, vanno valutati allo stesso modo i due guardi Giovanni, io prenderei per buona le considerazioni del suo allenatore che ha stravinto questa partita, Benitez, che ha detto: non ho parlato di arbitri dopo la partita con la Roma, non lo faccio oggi dopo la partita con la Fiorentina, l'ha detto l'altra sera, e secondo me ha stravinto questo duello dialettico, non c'è molto altro da aggiungere. Torniamo domani? No. Domani no, è sabato, stiamo a casa. Torna Giovanni Capuano domenica dalle 5 alle 7. Noi ci sentiamo lunedì. Franco Piantelli, autore di questo programma, e Marco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Oggi Carlo non ha mai pronunciato il nome di Mario Balotelli.